24 di Giovanni Minoli. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto. La sfida delle grandi città ormai è pressante, il nodo delle alleanze e candidature agita entrambi gli schieramenti. A Roma da riorganizzarsi è la società civile, che si è ritrovata alla convention di Rutelli. Imprenditori, comitati di quartiere e politici, non solo Dem, da Stefano Fassina ad Alfio Marchini. Prossima Roma, nella sala dove fu scelto Mattarella, no? Quindi è la sala dove vengono, ci sono le grandi investiture. Francesco Rutelli, allora la sala delle grandi investiture, dopo l'esperienza disastrosa di Marino, né il centrodestra né il centrosinistra hanno ancora il candidato. Lei sabato, l'abbiamo sentito, ha promosso una manifestazione di ascolto aperta intitolata La prossima Roma. Ecco Rutelli, farete una lista? No, non è nata per questo, ma è nata proprio in una situazione disastrosa, come lei dice. Certo, ma lei... situazione in cui non c'è uno straccio di idea sul futuro della città, e anche il dibattito della politica è avviluppato e frustrante. Ecco. Erano tutti da lei però, Fassina, Marchini, Renziani, Doc, è stata definita la Lupolda e lei il rianimatore. Ma lei si è sentito con Renzi prima di questa riunione oppure no? È una cosa autonoma? Ma no, ci siamo sentiti nella fase in cui lui cercava idee per come traghettare la situazione romana mentre Marino stava uscendo di scena e quindi... doveva decidere che forma dare a questa transizione, no? Il prefetto. D'accordo, ma insomma poi su questa iniziativa. Però Renzi, come lei sa, non è uno che ascolta granché i consigli, quindi è sempre utile darli, ma non è necessariamente. Senza la speranza efficace di vederli accolti, ecco. Ma il presidente del PD, commissario di Roma, Matteo Orfini, però non c'era, detto che aveva altro da fare, quindi proprio diciamo autonomia totale. Beh, assolutamente, credo tra l'altro che la novità di questa giornata è il carattere, guardi, io ho parlato con qualche centinaio di persone, alcuni non sono neanche riusciti a entrare per la riuscita inaspettata, noi avevamo preso una sala da 500 posti più alcuni altri con gli schermi. Sì, c'erano moltissime persone, questo sì, non so, sì, molti non sono riusciti a entrare, soprattutto nell'ora di punta, fine mattina. E l'effetto nella città è stato veramente, ed è un effetto molto incoraggiante. Ma è incoraggiante per cosa? No, è incoraggiante per cosa, Rutelli, per essere concreti? La città, guardi, la città oscilla dopo tutti questi disastri, mafia capitale, lo scioglimento del Consiglio Comunale, sì, le inchieste. Oscilla tra cosa? Il giubileo nel quale non si sta preparando nulla. La città è tra depressione, fiducia cosmica e rabbia. E lei cosa propone con questa sua iniziativa di Lupolda, diciamo così? Avere visto, guarda, il nome Lupolda l'ha tirato fuori una partecipante. Vabbè, è carino, sì. Vabbè, allora fa rianimatore. No, però le dicevo, avere visto un clima in cui anche il gioco delle correnti politiche c'è stata, perché questo è il dato reale, una raccolta di proposte sul futuro della città, ne abbiamo già pubblicate su questo sito che si chiama La prossima Roma e da oggi aggiorneremo naturalmente www la prossima Roma, ci sono già una venticinquina di primo livello. Senta, e però avete sentito più di 80 interventi. Senta Rutelli. Questo è l'argomento vero. Rutelli, mi sente? Eccolo, mi sente? Ecco, in sala c'era anche Alfio Marchini, che nel sondaggio è candidato vincente. Lei lo appoggia? No. No. Non appoggerò nessuno che non abbia prima dimostrato di avere con sé una squadra. Quindi, squadra e progetto, squadra e progetto, diciamo, è così? Sì, vedremo quando scaturirà. Ed è la responsabilità che viene fuori da una riunione come questa. Certo, che dimostra che la città ha grandi, fantastiche, non è aspetto di oggi, energie. Stai Rutelli, la prego di star fermo perché la sento male. Senta, un'ultima cosa, no, perché la voce va e viene. Ho l'impressione che anche quando ci sono i leader, i partiti siano oramai in condizioni difficilissime. Se ne può fare a meno? No, anzi, ce ne vorrebbero molti di più. Molti più partiti? No, molti più leader. Ah, molti più leader, ma leadership. Dicevo i partiti sono semi morti? Partiti non esistono, lei sa che a Roma... non esistono più nella forma che conoscevamo. Lei sa che a Roma la gran parte dei circoli del Partito Democratico è chiusa, non saprei dove si può. Ma alla fine lei vuole appoggiare il Partito Democratico con la sua iniziativa, sì? Ma guardi, se il Partito Democratico cava da questa iniziativa nuova linfa, io ne sono contento. Se affonda nelle sue così problematiche. Sì, ma lei esclude, interne, lei esclude di. Sarebbe fatica sprecata, quindi lei... vedremo come usare questa forza positiva. D'accordo. Non per me, glielo dico da subito. Cioè, lei non si candida, questa notizia certa. Va bene, grazie Rutelli. Se... non per me, e la mia tranquillità in questo periodo deriva da quello. E lo spirito positivo, certo. E anche forse, guardi, perché tanta gente è venuta, perché certo. Ha capito che. Io sto dando una mano. Una mano e basta. Certo. Va bene, allora noi la seguiremo. Grazie Rutelli, grazie. Seguiremo questa iniziativa 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Ma adesso entriamo dentro un'altra notizia. Mix 24, dentro la notizia. Cosa succede quando una banca fallisce? Chi deve accollarsi le perdite per la ristrutturazione o la liquidazione? La risposta, almeno fino al caso Cipro, era stata lo Stato. Ebbene, con le nuove norme, il cosiddetto bail-in, il salvataggio effettuato imponendo perdite agli investitori dell'istituto di credito, viene preferito al bail-out, quello cioè pagato dai contribuenti. Salvate da un consiglio dei ministri le quattro banche commissariate in Italia. Assieme a Carichieti, si tratta di Cariferrara, Banca Marche e Banca Etruria, resteranno in vita grazie a 3,6 miliardi di euro interamente a carico del sistema bancario. Soldi però, va detto, non pubblici, nemmeno un euro, ma del sistema. Banche che salvano altre banche per guadagnarci, forse poi. Quattro banche italiane dunque stavano per fallire, un decreto del governo ha evitato il fallimento. È giusto o è sbagliato? Il salvataggio fatto dal governo Renzi è davvero a costo zero per i contribuenti? Queste sono le nostre domande di oggi. Ecco, Paolo Savona, economista, ex presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Professore, quattro istituti di credito stavano per fallire, il fondo è intervenuto con 3,6 miliardi a carico del sistema bancario e non dei contribuenti. È stata una buona scelta? Intanto è proprio il mutamento della filosofia che io ho sempre combattuto che proviene da Bruxelles. Questo meccanismo è nato per proteggere il cosiddetto depositante sprovveduto di informazioni, che ovviamente pragmaticamente è stato fissato in 100.000, in un deposito non superiore a 100.000 euro. Allora, adesso la filosofia è diventata anche il modo invece di proteggere i bilanci pubblici, cioè di evitare che le perdite bancarie finiscano nei bilanci pubblici. Questo mi sembra un mutamento epocale. Ed è un mutamento che lei, è un mutamento sul quale lei non è d'accordo? E certo, a parte il fatto che vi è un principio di logica economica rigorosa che si va perdendo, che tu applichi uno strumento per raggiungere un obiettivo, non puoi raggiungere due obiettivi con un solo strumento, non puoi sparare per cogliere simultaneamente la lepre e il cinghiale, ecco, questo è il punto. Certo, ma perché il governo Banca Italia e le banche hanno deciso di anticipare la norma europea sul bail-in? No, non l'hanno anticipata, l'hanno praticamente bypassata, perché il bail-in significava che alla fine la banca chiudeva e venivano chiamati a sacrificare nell'ordine azionisti, obbligazionisti bancari e i depositanti superiori a 100.000. E quindi la questo Banca Italia... ovviamente avrebbe creato un po' di preoccupazioni, certo, e panico dappertutto. Naturalmente. E quindi si è deciso di inventare questo meccanismo, che non è il meccanismo della direttiva che il Parlamento troppo affrettatamente e come al solito superficialmente ha approvato. E quindi Banca Italia ha fatto da supporto, diciamo, all'operazione voluta dal governo di salvare queste banche? Non c'è dubbio, alla fine era questa, insomma. dire che la decisione è saggia, ma qua rimangono aperti i problemi per il futuro, come al solito, se non un po' più complicati, perché esiste un portafoglio che, di banche in crisi, che a un certo punto sta nelle mani soprattutto delle grandi banche, e quindi alla fine la sistemazione di questo, direi, portafoglio implicherebbe che le quattro banche si sviluppano talmente da rendere quella attività, chiamiamola, solvibile. Ecco. E questo ritengo che grande spazio in Italia non ci sia, e quindi prima o dopo bisognerà affrontare anche questo problema. Ecco, professore, però, praticamente sì, le preoccupazioni presso i depositanti crescevano e quindi l'intervento, chiamiamolo, è stato corretto. È il vecchio sistema, tapparsi il naso e approvare. Senta, questo salvataggio ha messo in mostra anche però i limiti del sistema, cattiva gestione, commistione pesante tra politica e finanza nelle quattro banche salvate. Ci sono 200 miliardi di sofferenze e i prestiti per le imprese e le famiglie sono sempre difficili da ottenere. Questo è l'altro punto, di fondo. E questi 200 miliardi sono dovuti a cattive gestioni delle banche, sono dovuti a quello che lei definisce le connivenze fra politica e banca, o, come io ritengo, soprattutto dopo l'ultima crisi, gli errori di politica economica, i ritardi o altre. Per questo io sostengo che alla fine lo Stato deve intervenire. Sì. Questi 200 miliardi io non credo che sia in particolare connesse a questa connivenza che probabilmente esiste, ma di cui io E lei invece li fa riferire, pensa che siano errori riferiti di politica economica. Ecco. Senta, l'Unione Europea comunque ha fatto una fortissima opposizione ai vari piani che aveva presentato il governo italiano per il salvataggio, per questo è dovuto intervenire la Banca d'Italia. Perché sono stati bocciati tutti i piani presentati? Sempre per la vecchia disputa che in Europa è proibito l'intervento pubblico a copertura delle perdite. Però i tedeschi hanno salvato le loro banche regionali. E certo, questo significa che due pesi e due misure. Due pesi e due misure. Figli e figliastri. Ecco. Senta, professore, ancora una cosa. Ma lei cosa ne pensa del bail-in? Ma io sono assolutamente contrario, se noi intendiamo con questo termine il fatto che se non bastano le risorse degli azionisti, obbligazionisti e depositanti superiori ai 100.000, tu travolgi anche i piccoli risparmiatori garantiti. Quindi significa che l'obiettivo di questo strumento di protezione deve essere un obiettivo a favore dei depositanti. Non è che lo Stato si chiama fuori, come sto dicendo, dagli errori di politica economica che egli stesso fa, o dall'impatto, come è successo, della crisi finanziaria americana sul funzionamento delle banche. Ma perché, quindi, infatti un correntista perché dovrebbe sapere cosa fa il management della banca dove ha depositato i suoi soldi? E questo, si è perso per strada il concetto di depositante sprovveduto. Allora, l'altro mio punto è: volete applicare il bail-in? Allora, o la Banca d'Italia, che è la più legittimata, o il Fondo Tutela Depositi indicano quali sono i rischi bancari, che ovviamente sarebbe avrebbe un effetto dirompente nel sistema. Però se vuoi applicare il bail-in, trasferire il rischio sui piccoli depositanti, tu lo devi informare. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Ecco Mario, i tedeschi hanno salvato le loro banche, circa 60 miliardi dopo averle salvate, chiedono adesso a noi un sacrificio. Facciamo così, prima di rispondere alla mia domanda, sentiamo uno stralcio di quello che ha detto Sebastiano Barisoni nel suo Focus Economia venerdì scorso, un breve intervento. La stessa Europa non si è accorta che un paesino piccolo come la Germania, da quando è scoppiata la crisi, ha messo per salvare in primo luogo Commerzbank e anche comunque gli altri istituti, di Deutsche Bank. Ieri ho parlato per quello che riguarda l'ammontare di derivati che questa banca ha, e da tutti gli operatori ci viene fatto notare. So benissimo che l'attività di Deutsche Bank in Italia è un'altra cosa rispetto alla casa madre. Comunque la Germania ha speso, se ho ben capito, 64 miliardi di euro. Ecco, non 60, 64, Mario, due pesi, due misure sostanzialmente. Dunque, in molti casi sono stati aiuti di Stato, per esempio mi viene in mente il caso della Nordbank di Amburgo, che è stata salvata grazie all'appoggio del Länder, del Fondo di Stabilità tedesco e così via. Però legittimi. Ora è chiaro che si può benissimo anche dire, no, che sono due pesi due misure, però il fatto che le casse del governo o dei lender in Germania abbiano salvato le banche non ci autorizza a noi a dire che lo stesso debba fare lo Stato italiano con i soldi del contribuente. Io penso questo: il bail-in sicuramente ha dei lati che possono essere migliorati. Però vi è per la prima volta un principio di responsabilità. Cioè, chi sbaglia paga. Chi sbaglia paga, questo è molto importante secondo me. Cioè, anche il provvedimento del governo, di fatto spazza via gli azionisti che non si sono comportati bene e hanno il management, ovviamente, gli obbligazionisti li chiama alla responsabilità e i correntisti no. Ora, anche questo è previsto nel bail-in europeo, in realtà, in vari gradi. È all'ultimo stadio che viene chiamato il correntista, e quindi si può certamente migliorare, ma la norma va mantenuta. Cioè, perché per le porcate degli amministratori di qualche banca devono pagare i contribuenti onesti dello Stato italiano? Io questo non riesco a capirlo, abbiate pazienza. E quindi va bene. Senti, Pietrangelo, Mario ha una posizione mi sembra chiara: anche il correntista deve essere prudente in qualche modo, attento a come investire i suoi soldi. Tu cosa ne pensi? Io penso che l'osservazione della realtà, a maggior ragione da Roma in giù, ancora peggio da Napoli in giù, è definita in un fatto, e cioè che la gente molto spesso si butta tra le braccia degli usurai, perché comunque le banche hanno abbandonato di fatto la maggior parte della popolazione, a maggior ragione nel meridione. E quindi vorrei, con le note di Kurt Weill, ricordare, e stavolta non vengo con i Cantos di Ezra Pound, ma niente meno con Bertolt Brecht, la sua celeberrima massima. Anzi, una domanda: è più criminale fondare una banca o rapinarla? Bella la provocazione di Pietrangelo, come sempre. Corrado Sforza Fogliani, presidente di Asso Popolari, l'associazione delle banche popolari. Ecco, presidente, non è un buon momento per le banche popolari. Il governo ha dovuto intervenire due volte: la prima per trasformare le più grandi in SPA, in società per azioni; la seconda per salvarne quattro, come abbiamo detto, per decreto dal fallimento sicuro. Cosa sta succedendo? Ma intanto le quattro non sono popolari, o perlomeno solo due sono popolari, le altre sono casse di risparmio. Sì. Quanto al fatto della conversione, lei è d'accordo? In SPA si tratta di una soluzione che il governo ha individuato, ma non è stata una necessità. Si è ritenuto che ci sono anche state molte opposizioni. Ci sono anche state molte opposizioni, diciamo, al fatto che capitasse. Sono stati degli azionisti che hanno ritenuto, esatto, che fosse un atto incostituzionale. In Germania comunque la Merkel, le sue banche popolari, le ha difese invece. La Merkel ha un sistema di natura diversa, non ci sono le norme europee che sono state fatte o perlomeno sono state accettate abbastanza supinamente dal governo italiano e che coinvolgono azionisti e obbligazionisti. È naturale, lei dice supinamente, diverse. In quel supinamente c'è un giudizio, insomma. Certamente, a proposito della direttiva, senz'altro. Certo. Senta, Presidente Fogliani, cosa ne pensa, Presidente, del bail-in europeo? Ma il bail-in europeo è un qualcosa in Italia di incostituzionale, perché il risparmio deve essere tutelato. A mio modo di vedere è stato supinamente accettato, anche perché in quel momento la Commissione europea doveva decidere sulle leggi di stabilità e probabilmente non si è fatta un'azione decisa come si sarebbe potuto fare. E quindi abbiamo recepito questa direttiva, come molte volte accade in Italia, molto più in forma grave di quanto non fosse altro, che gli azionisti e gli obbligazionisti sono un discorso, i depositi sono gli altri. Che ecco, mi risulta i depositi non dovrebbero essere, esclusi. Esclusi dopo i 100.000 euro, diciamo, sì. Ma questo secondo recepimento, sì, italiano, esatto, che è stato un recepimento accettato abbastanza supinamente. Quindi lei è contrario, diciamo. Sono contrario perché da tutte le altre parti, e specificatamente per esempio negli Stati Uniti, questo non avviene, ha seminato il panico. Tra i correntisti, gli azionisti, e tutti, che non serve a nessuno, anche perché le banche hanno sempre la possibilità di, hanno sempre avuto e hanno sempre la possibilità di fallire. Beh, non è un fallimento, è una liquidazione coatta amministrativa, ma se questo non si è verificato dal 33 in poi, era inutile sollevare questo pandemonio, questo polverone, tanto più che si è dimostrato che il sistema è in grado di far fronte da solo alle proprie criticità. Ecco, ma cosa fate voi intanto per informare i correntisti di fronte a questo panico che agita un pochino il mondo di chi ha dei conti correnti? Che i correntisti possano essere interessati è ancora da vedersi, perché secondo me la normativa è incostituzionale e quindi non sarà mai applicata né per gli azionisti né tantomeno per i depositanti. Senta, il salvataggio di queste banche però alla fine ha costato più o meno 3,6 miliardi al sistema bancario. Non era meno costoso invece accettare il bail-in europeo? Era meno costoso in termini forse di riguardo alle singole banche, alle banche che dovranno provvedere, però si sarebbe sollevata una situazione inedita che certo avrebbe provocato danni maggiori. La soluzione che è stata individuata è una soluzione sostanzialmente autonoma da parte del sistema bancario, da parte di tutte le banche, che le dimostra banche anche la sua forza, dovranno essere rimborsate, che dimostra il senso di responsabilità e la capacità e la forza delle banche e del sistema italiano, cioè di un sistema che non ha mai avuto una lira di aiuto di una lira o un euro di aiuto dello Stato. Mario Fogliani addirittura dice incostituzionale, insomma mi sembra che siamo una situazione che scardina molto quello ha detto anche di più, ha detto che gli azionisti non devono essere chiamati a rispondere. Ora bisogna capire perché, in quale pianeta dell'universo gli azionisti non debbono essere chiamati a rispondere di una quota di rischio che hanno loro sottoscritto. Cioè, se io sottoscrivo quote di capitale, so che sottoscrivo anche il rischio, ma certamente so che ho i dividendi, guadagno di più, eccetera. Questo è un principio sano del capitalismo e non si riesce a capire, è incredibile, non lo so. Evidentemente non si vuole prendere atto di una cosa, che è finita la festa. Dal 2008 ad oggi la crisi finanziaria sembra non avergli insegnato niente. Vabbè. Ed è una storia che va avanti dal lontano 1929, mi pare che di tempo ne abbiano ce n'è stato. Ecco, al telefono con noi abbiamo Stefano De Polis, buongiorno, che è un pochino il dominus di questa situazione, perché è il direttore dell'unità di risoluzione e gestione della crisi della Banca d'Italia. Non vorrei essere al suo posto, dottor De Polis. Buongiorno. Buongiorno. In Italia ci sono, ha sentito, no? Un po' sì, come certo. Stanno le posizioni. Ecco, ci sono troppe banche piccole, la sorveglianza non riesce a prevenire situazioni di pericolo. Oltre alle quattro sulle quali siete già intervenuti, ne potrebbero arrivare altre regionali? Guardi, noi siamo intervenuti su quelle che erano le aziende più grandi in amministrazione straordinaria, quindi questo ci ha permesso di risolvere quelli che sono tutti i casi principali che in questo momento stavamo gestendo. Ecco, ma ce ne sono degli altri in arrivo? Guardi, noi abbiamo delle altre aziende in amministrazione straordinaria, ma sono aziende di piccolissime dimensioni sulle quali stiamo lavorando per trovare delle soluzioni, ma che diciamo non coinvolgeranno e non prevederanno interventi di quelli posti in essere con queste operazioni. Dottor De Polis, lei ha sentito delle posizioni molto diverse, addirittura si arriva all'incostituzionale. Secondo lei è stata fatta una campagna di informazione adeguata sull'entrata in vigore nel 2016 del bail-in? Guardi, la campagna di informazione noi abbiamo la gente è spaventata, lo sapete. Sì, abbiamo sicuramente dato avvio a questa campagna, diciamo, con un documento pubblicato a luglio e al quale è seguito effettivamente un forte interesse della stampa, che ha pubblicato molto su questo tema. Sì, però noi vediamo dalla reazione anche dei nostri ascoltatori che i risparmiatori sostanzialmente non sanno di cosa Ecco. Di che cosa vuol dire esattamente? Perché... Guardi, e questo secondo me è il punto. Allora, quando si fanno scelte di investimento devono essere scelte consapevoli. Questo richiede, in primo luogo, che siano adeguate le informazioni che vengono fornite all'investitore. Giusto. E questo è un dovere delle banche, che devono non solo fornire informazioni adeguate, ma anche fornirle in modo corretto, in modo chiaro, soprattutto con un linguaggio chiaro. Però mi permetta anche di dire che scelte di investimento consapevoli richiedono anche che i clienti siano in grado di apprezzare e valutare le informazioni ricevute, ecco, e quindi scegliere secondo le proprie esigenze. Ecco, ma perché in Germania le banche vengono salvate da interventi statali mentre noi dobbiamo salvare con interventi di altre banche? Perché questo è difficile da capire. Prima ha sistemato le loro banche, poi adesso a noi ci dicono che dobbiamo invece farci sbrigarcela da soli. Sì, lei ha ragione, è difficile per l'opinione pubblica, stavolta anche per noi, comprendere le differenze di trattamento. Forse riferendosi a una vicenda che in questi giorni è stata sulla cronaca, quella della banca HSH, la North Bank, bisogna solo dire un solo aspetto. La differenza principale tra le due vicende risiede comunque nella circostanza che l'intervento dei Land tedeschi di sostegno della banca ha preso avvio nel 2011, quindi in un altro quadro, diciamo, regolamentare. Insomma, facciamo finta che basta come spiegazione, dottor De Polis. Senta, per salvare le quattro banche, quali sono le proposte che sono state fatte dal governo e che l'Europa ha rifiutato, per cui poi è arrivato tutto in mano a voi, alla Banca d'Italia? Ma sostanzialmente l'Europa non ha dato il via libera ad un cosiddetto intervento alternativo del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Italiano, che prevedeva la sottoscrizione di un aumento di capitale di queste quattro banche, e questo aumento di capitale sarebbe stato adeguato a restituirle alla gestione ordinaria. Senta, ma è possibile che sia l'Europa a decidere anche come dobbiamo salvare le nostre banche? E questo in parte è l'evoluzione che stiamo vivendo in questa fase, stiamo subendo, in cui stiamo costruendo la parola giusta, un'unione bancaria. Un'unione bancaria che subiamo a queste condizioni. È un'unione bancaria che prevede sicuramente una più stretta cooperazione tra istituzioni nazionali e comunitarie. Sì, lei è molto diplomatico, ma un po' subiamo, ma capisco che la Banca d'Italia non può andare molto oltre. Un po' subiamo, ma diciamo, cerchiamo, ovviamente siamo anche propositivi e partecipi di questo processo. Senta, ma allora, non c'è dubbio. Ecco, per chiudere, dottor De Polis, la ringrazio. Mi spiega bene qual è il ruolo attuale di Banca d'Italia, visto che oramai tutto è trasferito alla BCE. Come fate a ritagliarvi un ruolo lì dentro? Guardi, col primo gennaio si realizza completamente l'unione bancaria, quindi ci sarà la BCE nel campo della supervisione, ma anche il Single Resolution Board nel campo della risoluzione cosa delle banche. Farà la Banca d'Italia esattamente da quel giorno? In entrambi i casi noi rimaniamo competenti per gestire sia la supervisione che le situazioni di crisi delle banche di piccole dimensioni, che in Italia sono 550, non sono poche. Perché piccolo dove finisce piccolo? Diciamo a 30 miliardi di attivo. E quindi voi vi occupate dei piccoli, le piccole piccoli, banche però, vi lasciano le piccole banche. Però nel contempo partecipiamo alla governance degli organismi europei, quindi la BCE il Single Resolution Board, nel gestire e affrontare i casi più grandi. Cioè, avete a livello un posto europeo. In Consiglio d'amministrazione? Abbiamo un posto in Consiglio d'amministrazione. Va bene, valiamo uno su quanti? È su 20. Ah, vabbè, passa avanti. Grazie. Sì, grazie, dottor De Polis, grazie. Ecco, mi chiedo se si possa evitare il coinvolgimento dei correntisti, da quello che sta capitando. A vari livelli, sì. Ma è anche giusto, cioè dipende da che tipo di strumenti finanziari hai sottoscritto. Cioè, voglio dire, se tu hai un profilo ad alto rischio, non voglio dilungarmi su questo, ma se tu sottoscrivi un profilo ad alto rischio, non è che puoi fare finta di niente dopo, detto. No? Invece sono contrario, per esempio, a quello che diceva Savona prima, è giusto. Cioè, c'è il correntista che non è avvertito perché ha un profilo di rischio basso, eccetera, e quello Mario, non deve essere Mario, coinvolto. Diciamo una cosa semplice, la Banca d'Italia dall'inizio del prossimo anno conta 1 su 20 in consiglio di amministrazione, cioè abbiamo veramente ridotto. Sì, ma io sono convinto che l'unione bancaria serve. Che sarà bene, serve. Ma Pietrangelo, tu cosa dici per difendere i correntisti? In una società sana il mondo della finanza, le banche, l'economia devono stare sotto scopa rispetto alla politica. La situazione invece qui è capovolta, è rovesciata. È la politica essere sotto scacco rispetto al mondo della finanza, dell'economia e delle banche. Ma non è colpa della finanza quella, è colpa della politica. Ah, non è colpa della politica, colpa non della a politica. Caso posso cioè, dire una malizia devi. Immaginate al tempo del governo Berlusconi, sì, si fosse riunito il Consiglio dei Ministri di domenica per salvare una banca, tra le altre, dove è interessato per esempio il papà di Mara Carfagna. Sarebbe successo l'inferno. È successo che domenica si per sono fortuna riuniti. Il papà di Mara Carfagna non è banchiere. È un preside, è un preside. Si preside. Sono riuniti di domenica per salvare tra le banche la banca che interessa al papà di un ministro che correttamente, Maria Elena Boschi, non ha partecipato al Consiglio dei Ministri. Tanto ciripiripi, tanti applausi, niente. Appunto, è colpa della politica, perché la politica è assoggettata alle banche. Mario, ce l'hai una canzone per chiudere questo discorso sulle banche e su noi poveri correntisti? Puntata rovente, musica eccezionale, un brano di tanto tempo fa, eravamo giovani, Money's Too Tight to Mention dei Simply Red. Money's too tight to mention, I can't get an uncommon extension. Money's too tight to mention. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Mix 24. Questo problema delle banche sarà veramente grande per tutti. Bisogna fare informazione. Sì, informazione, perché nessuno ci capisce niente. Sì, questa è la sostanza. Beh. Pietrangelo, la tua canzone? Eccola. Dedica speciale per chi oggi, lunedì, è rimasto a casa avendo scelto per oggi, giusto inizio settimana, la casa come unico luogo dove andare. E c'è un verso in questa canzone. C'è un periodo prima che noi nascessimo in cui se qualcuno l'avesse chiesto dove andare qui sarei stato. Ha chiamato oggi al centralino Eva Kant. Addirittura. Una delle mie passioni da ragazzino. Anche mia. Eva Kant ha chiamato e dedica questa canzone, come appunto una vera chicca, a chi? All'ispettore Ginko. Posso segnalare una cosa? Che Buttafuoco ha messo un pezzo strepitoso di Talking Heads. È vero. Bellissimo. Si sta convertendo. Sentite, piano piano c'è un'educazione musicale contemporanea anche in lui. Sentite. Mario, io non sono moderno, è vero, però sono contemporaneo. Questo è vero, compagno Buttafuoco. Vai con la bolla cattiva. No, finalmente confessi di non essere capace. No, senti qua. Va bene. Questo baccano, che succede? È la stampa, belletta, la stampa. E tu non ci puoi far niente. Oh, non ci puoi far niente, però la puoi leggere la stampa. Allora, stamattina io ovviamente, come tutte le mattine, ancora non era sorto il sole e già avevo letto tutta la stampa italiana. Quello poi, lo sappiamo. Poi all'alba mi sono letto la stampa straniera e la cosa divertente, sempre molto curiosa, è che la stampa italiana apriva tutta su Parigi, gli scontri, non il vertice, gli scontri, quindi la roba della Teppaglia che si riuniva in piazza e sfasciava tutto e calpestava pure i fiori in omaggio dei defunti, anche le candele. Ebbene, sono poi andato a fare il mio giro di stampa inglese. E cosa hai visto? Niente, d'altro. Parlavano d'altro, giustamente aggiungo, ma tipo per esempio la disfida che c'è dentro il Labour, dove il leader Corbyn... Vabbè, anche loro, piccola roba locale. Voglio dire, devono decidere se bombardare in Siria o meno. Mi pare una roba molto importante, una discussione che dovrebbe... Vedrai che loro bombarderanno. Ecco, ma perché in Italia noi non discutiamo di questo, non si vede perché sui non giornali? Perché non vogliamo bombardare oppure non la vogliamo dare? No. Notizia, non lo so, che dici? Qual è notizia? Non vogliamo dare la notizia? Non vogliamo dare le notizie che, secondo me, bisogna discuterla questa cosa, perché se Renzi non la affronta, Non fa la figura del leader e sta venendo fuori questa cosa, secondo me. Però per colpa, un leader per colpa come Renzi di questa guerra, farlo. Per colpa di questa situazione l'economia va male. Parliamo dopo. Allora andiamo con il salamino. Niente musica. Niente musica. Oggi vi leggo una lettera. È di un detenuto, un mio amico, e lui mi scrive raccontandomi la sua tristezza per quello che sta succedendo. Ancora più triste, dice, confondere, non so quanto in buona fede, i terroristi con gli islamici. Secondo il nostro, si fa per dire, sottolinea lui, secondo il nostro governo, le carceri sarebbero luoghi da attenzionare particolarmente perché a rischio proselitismo. A me, mi scrive lui, il mio amico, a me che vivo il carcere da 5 anni, pare invece che sia più alto il rischio di vendetta. La vendetta discriminatoria. Oggi, mi dice lui, mio amico, mentre pregavo insieme con il mio compagno di cella, Jamal, e guardavo i gabbiani, simbolo di libertà, volare dentro le mura del nostro carcere, pensavo a ciò che è la fede, impossibile da imprigionare e che non deve essere strumentalizzata, anche se appartiene a un detenuto, sia esso cristiano o musulmano. Difendimi. Ho continuato a pregare insieme al mio compagno Jamal. Abbiamo pregato con la stessa intensità per le vittime del terrorismo e abbiamo pregato allo stesso modo, e di diverso c'era soltanto il mio sguardo rivolto al cielo, dove c'erano i gabbiani, e quello di Jamal rivolto verso il muro, in direzione di Mecca. A noi che ci piace il classico, mi scrive il mio amico, sappiamo cosa significhi. Etiam periere ruine, anche le rovine vanno a perire. Che Dio ci aiuti, mi scrive il mio amico. È Totò Cuffaro che mi scrive dal carcere, raccontandomi la sua giornata in compagnia di Jamal, il suo compagno di cella, e dice quanta luce c'è nel buio. Riportami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. Beh, una riflessione necessaria. Sono d'accordo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ieri sera, vedete, ho voluto rivedere un filmato e mi sono commosso. Ho rivisto le immagini di Enzo Tortora che, rivolgendosi ai suoi giudici, disse: io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Così uno degli errori giudiziari più sconcertanti della giustizia italiana è diventato un paradigma, uno scandalo che chiama in causa la responsabilità dei magistrati, il funzionamento delle procure, il ruolo della stampa. Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Il caso Enzo Tortora, un uomo innocente. I testimoni, i misteri, gli interrogativi qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Mix 24. Pietrangelo, canzoniere. In giubba o in isparato, voi siete sempre voi. Muta, come chi pensa casi remoti e vani, mi strinse le due mani con tenerezza immensa, e in quella familiare mitezza di sorella, forse intravidi quella che avrei potuto amare. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, aiutino sì, aiutino no. È facilissimo. Aspetta, forse facilissimo. Intravidi quella che avrei potuto amare. Va bene, Mario, vai con l'altra bolla. Io non so niente, ma no, vabbè, vedremo, cioè, i suoi ascoltatori indovineranno. Questo ormai è un pezzo entrato tra i classici della musica contemporanea, sono i REM. Losing My Religion. Va bene, e insomma bisognerà pur perderla ogni tanto anche la fede per poi riacquistarla con più forza e vigore. Questa è una settimana molto intensa sul fronte dell'economia, perché abbiamo una riunione della BCE molto importante che dovrebbe decidere entro martedì, credo. Ma è importante perché cosa deve decidere? Cosa ci deve dire? Se mettere più denaro o no nel sistema, quindi acquisti di altri strumenti finanziari con la liquidità. E Draghi è la catapulta del denaro, perché la ripresa non è così forte come si prevede. Ah, e questa è la notizia che prima non mi hai fermato. Sì, me la spieghi bene? Com'è il discorso di Padoan? Il discorso di Padoan è che, tra l'altro, domani escono i dati sulla disoccupazione, la produzione industriale in Italia, in Germania e così via, quindi altri dati. Padoan dice che ci sarà, insomma, che non è sicura la ripresa. Veramente noi questo l'avevamo detto. Adesso non è più sicura perché c'è la guerra. Perché c'è la guerra, secondo me. Insomma, però quello l'avevano già detto prima che non era sicura. No, vabbè, il terrorismo è un chiodo dove appendi un quadro. Qualunque quadro. Quindi finché c'è guerra c'è speranza di far continuare la narrazione al governo. Ma insomma, mica tanto. Perché se non c'entrano i risultati di quest'anno, 0,9, insomma, la vedo dura. Insomma, vediamo, guarda, domani e dopo noi abbiamo un quadro chiaro. Non ci abbiamo nessuno indovinato, e allora Renzi è arrivato alla conferenza del clima a Parigi. Domani conferenza del clima ne parleremo a lungo. Ecco, ma con il professor Bernabei commentiamo come al solito le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, 22 ottobre 2015. Un trial randomizzato e controllato sulla sostituzione di ginocchio. Come sapete, la medicina fa cose straordinarie. La sostituzione di pezzi del nostro organismo, pensate all'anca o al ginocchio, è ormai un fatto che avviene regolarmente. Allora, in questo studio si è visto cosa succede nel dettaglio a chi è che ha una sostituzione totale di ginocchio. Pensate che negli Stati Uniti ogni anno ci sono 670.000 di questi interventi, quindi 670.000 nuove ginocchia impiantate in altrettanti pazienti. E allora si è visto cosa succedeva prendendo 100 pazienti con una artrite severa di ginocchia, gente che aveva un dolore insopportabile oppure non poteva muovere più questo ginocchio, e vedere cosa succedeva a questi 100 rispetto ad altri 100 che venivano con gli stessi sintomi, gli stessi problemi, sottoposti semplicemente a fisioterapia, dieta, esercizio, informazione, cioè tutte le cose insieme all'utilizzo di plantari e a farmaci che attengono a una terapia solo medica. E questo veniva fatto misurando dopo 12 settimane, dopo quindi 3 mesi, quando ormai l'intervento aveva aveva avuto il suo risultato, veniva fatto sottoponendoli ad una scala molto precisa da 0 a 100 che misurava il dolore, la qualità della vita e la funzionalità di questo ginocchio. Il risultato? Il risultato è straordinario. Signori, se avete questo problema fatevi operare, perché operandosi si sta meglio non solo in termini di dolore, ma in termini proprio di capacità di muoversi, che è poi quello che fa la differenza tra essere un disabile ed essere uno che fa una vita piena.